Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. "24 mattino" di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 18 minuti e 14 secondi, inizia la terza parte di 24 mattino di questo venerdì 24 luglio, e questo 24 che qua su Radio 24 evidentemente continua a ricorrere. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella per l'ultima puntata di questa stagione. Buongiorno Simone, e per questa puntata non chiuderemo con tutto il mondo e il paese, con le letture delle prime pagine dei giornali francesi o inglesi, perché questo è stato un po' il filo conduttore di questi mesi. Abbiamo cominciato durante il lockdown e però insomma questa è l'ultima puntata. E allora, caro Simone, lasciami dire che questi 2 anni di sveglie al mattino presto sono stati molto belli. C'era ogni mattina la voglia di ritrovarci, di ritrovare i nostri ascoltatori. Devo dire un grazie enorme, come una casa, a chi ci ha seguito in tutte queste mattine e a tutti i nostri amici della regia, Carmelo, Peter, Alessandro, i nostri straordinari colleghi autori. Un grazie ovviamente a te, un grazie al direttore ovviamente Fabio Tamburini, a Sebastiano Barisoni, e un grazie molto molto molto sentito anche ai colleghi del GR, a Vincenzo Miglietta, che tutte le mattine prima di lasciare la linea era così gentile da citarci. Insomma, 2 anni veramente favolosi. Buona estate intanto a chi ci segue e che continuerà a seguire ovviamente Radio 24 con Giulia Crivelli e 24 mattino, e un grazie a chi continuerà a seguire anche le repliche di Nessuno è Perfetta, che continuerà anche durante l'estate. Allora Maria, visto che ci siamo e siamo in fase di ringraziamenti, fammi ringraziare anche te per quest'anno insieme, tutti i giorni insieme dalle 8:20. Tra l'altro abbiamo vissuto un periodo complicato, perché è stato il periodo di Covid, questa fase molto intensa anche dal punto di vista emozionale, nel sentire i nostri ascoltatori e le loro preoccupazioni naturalmente, e ti ringrazio anche per tutti gli stimoli che hai dato quotidianamente, non solo in trasmissione ma anche fuori dalla trasmissione, anche in tutto quello, anche nella fase di preparazione di questa trasmissione. E ci siamo divertiti a punzecchiarci un po', faceva parte del gioco, è giusto così. E già che ci siamo, i titoli di testa non possono non tener conto della meravigliosa redazione: Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera e i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. Titoli di testa che comprendono, come già accennavi tu, chi arriverà dalla prossima settimana e fino al 31 agosto. La rassegna stampa sarà condotta dalla mitica Giulia Crivelli, e poi torna "Ma cos'è quest'estate?". Questa prima settimana, questo primo periodo sarà condotto da Laura Bettini. In bocca al lupo a lei e a tutti quanti, a tutti i colleghi del GR che poi ci accompagneranno per tutta l'estate. E che continueremo a seguire camminando sulla spiaggia. Non so tu se camminerai su una spiaggia o in montagna, io sei di Sabaudia, quindi è facile per te, come tutte le persone che provengono dal mare. Bene, poi vi faremo sentire un passaggio di qualcosa del meglio di quest'anno alla fine della trasmissione, e però prima veniamo agli argomenti di giornata, e l'argomento di giornata che abbiamo scelto, col quale aprire questa trasmissione, è questa vicenda di Piacenza, la caserma di Piacenza, i 6 carabinieri arrestati, i sospetti molto fondati dei magistrati, almeno a vedere le carte, poi naturalmente tutto andrà approvato in giudizio, lo diciamo sempre, che di fatto quella caserma nelle mani di quei 6 carabinieri fosse diventata una sorta di centrale di spaccio, con violenze e pestaggi che avvenivano dentro e fuori dalla caserma, e con un grande obiettivo: fare più arresti possibile per poi rimanere impuniti di fronte a questa efficienza. Ne parliamo con Angelo Tofalo, che è sottosegretario alla difesa. Buongiorno Tofalo e benvenuto. Salve, buongiorno a tutti voi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno sottosegretario. Senta, io sono, come dicevo, una ragazza di paese, no? E nel mio piccolo paese c'era la caserma dei carabinieri. I carabinieri erano considerati, appunto, nel nostro paese, il punto di riferimento per sapere vita, morte e miracoli di tutti gli abitanti del paese medesimo, perché avevano mille fonti di informazione. A tempo un carabiniere diventava carabiniere dopo che era stato fatto l'esame del sangue a tutta la famiglia. Mi fa capire che cosa è successo in questi ultimi anni, cioè com'è possibile che diventino carabinieri persone che non hanno un'etica, perché non è che uno perde la testa, come dire, negli ultimi mesi. È evidente che queste persone, sempre col pregiudizio, la prevenzione dell'innocenza, questo lo ribadiamo fino alla nausea, però non è possibile che non si tenga presente, no, la storia personale, le inclinazioni, o sono tutti grandi attori, o prima di diventare carabiniere uno dovrebbe essere sottoposto a una serie di serrati controlli, perché gli mettiamo in mano l'arma, la reputazione dell'arma dei carabinieri, che è una di quelle cose su cui, come sulla mamma, uno mette sempre la mano sul fuoco. Sì, allora innanzitutto consentitemi di farvi complimenti per la trasmissione, io vi ho seguiti in questi mesi anche di emergenza, e dico questo proprio perché quanto accaduto a mio giudizio è qualcosa di grave ed inaudito, ovviamente come avete ben ribadito, poi sì, massima fiducia al lavoro della magistratura, tutto verrà accertato, ecco, però per questa notizia ha lasciato tutti molto, molto scioccati, ed ancor più grave, mi riferisco a quello che avete anche il vostro lavoro di intrattenimento durante un'emergenza senza precedenti, pensare che c'erano determinate persone, dei carabinieri, che commettevano e avrebbero commesso questi reati in un momento in cui io quotidianamente ero qui al lavoro in ufficio, le forze armate in generale, le forze di polizia hanno fatto un lavoro straordinario per questa emergenza. Come sappiamo, questa è notizia di ieri, il comandante generale Nistri ha avviato immediatamente un'inchiesta interna, quindi l'arma dei carabinieri, la difesa si è messa a totale disposizione della magistratura e ha avviato suoi protocolli interni per andare a rilevare tutte quelle che sono state magari criticità nei controlli e più complessivamente nell'organizzazione della realtà territoriale. Io ritengo che la natura umana non cambi al di là dell'organizzazione, della famiglia sulla quale andiamo a ragionare, sicuramente va fatta una seria riflessione e a mio giudizio un futuro irrobustimento di quelle che sono le procedure, sicuramente sia di selezione, ma non mi riferisco in particolare all'arma, qui parlo di forze armate, di forze di polizia. L'arma dei carabinieri è una storia bisecolare e non credo abbia bisogno, ecco, di essere difesa per quello che dimostra quotidianamente. Io ogni giorno da circa 8 anni, anche prima nella mia prima vita, io da ingegnere progettavo opere strategiche all'interno delle caserme, quindi diciamo sono oltre 15 anni che frequento forze armate e posso dire oggi ho l'onore e l'onere di rappresentarle come sottosegretario di Stato pro tempore. Non voglio assolutamente che passi un messaggio che facciamo tutta l'erba un fascio, cioè ci sono 110.000 carabinieri, persone serissime, ci sono a mio giudizio delle mele marce che per fortuna sono l'assoluta minoranza, che vanno individuate e non solo punite ma immediatamente allontanate e tolte. Io queste persone ovviamente Tofalo, mi scusi però sul ragionamento delle mele marce che sì, per carità, io comprendo che lei da sottosegretario della difesa debba fare, si appunta oggettivamente qualche dubbio, perché l'idea che costoro potessero agire e abbiano potuto agire impunemente per anni senza che da un comando provinciale, da un comando regionale, nessuno si sia accorto di nulla, per me ci pare un pochino strano. Sì, no, ma non lo dico da sottosegretario di Stato pro tempore, mi perdoni, lo dico da cittadino italiano. Io vivo in un piccolo comune di 10.000 abitanti che cioè, se mi scusi, Tofalo, se per me le marce, se lei per me le marce intende che sono una minoranza i carabinieri che operano al di fuori di come devono operare, siamo perfettamente d'accordo. Però me le marce intende che sono solo quei sei e non c'è qualche problema anche quantomeno sui livelli intermedi, elenco, no? Sottosegretario, purtroppo, di casi simili. Ricordo i carabinieri del caso Marrazzo, l'ex presidente della Regione Lazio, sempre citato il caso di Stefano Cucchi, e poi i carabinieri accusati di aver violentato delle turiste americane. Non voglio fare l'elenco, ma quello che le chiedo è il controllo. Cioè, è possibile, no, che qualcuno sbagli e sbagli gravemente, però l'arma dei carabinieri dovrebbe essere quella che ha contezza di quello che succede, no? Sì, sì, ma l'arma dei carabinieri, così come io aggiungo tutte le forze armate e tutte le forze di polizia, io, ecco, al di là di quelle che è una semplice retorica, sono certo, ecco, che lo Stato siamo noi, la capacità di essere, come dire, sempre vigili e di perseguire poi con la massima severità simili episodi. Quindi adesso io non voglio, oggi parliamo di carabinieri, ma negli anni, come dire, ogni forza armata, ogni forza di polizia ha avuto determinati episodi, quindi non bisogna mai perdere di vista quelli che poi sono i valori più alti della democrazia. Ci si impegna affinché ci sia un controllo serrato, sicuramente a mio giudizio qualcosa va rivisto e bisogna stringere i bulloni, ecco, su quelli che sono e che saranno i controlli futuri. Ma io mi permetto di dire, di fare una considerazione anche più larga a questo punto, ma l'avete detto voi, l'avete sottolineato voi nella prima domanda che mi avete posto, e a mio avviso va fatta anche una seria riflessione su quelli che sono poi gli arruolamenti all'interno delle nostre forze armate di polizia, dove comunque in questi ultimi anni stiamo già lavorando per migliorare il modello. A mio avviso su questo bisogna puntare molto, e poi gran parte, ecco, dei reati che si riescono a contrastare in ogni luogo, in ogni organizzazione, poi sono frutto spesso anche del coraggio di chi denuncia, le capacità di chi indaga e l'indipendenza di chi va a giudicare. E un dato rilevante che poi, se ho ben inteso, è quello che ha fatto partire il tutto, a mio avviso, è sempre poi il tenore di vita. Allora è normale che quando un carabiniere diciamo non è ricco di famiglia, tra virgolette, e si trova all'improvviso con una villa, una piscina e una fuoriserie, è quelli e 23 bisogna... conti correnti e 23 conti correnti, sì, esatto, qualche, per, qualche perplessità, cioè. Però Tofalo, io vorrei una risposta a questa domanda: perché i superiori di quegli agenti non si sono accorti di niente e non sono intervenuti? Cioè, com'è possibile? Questo lo accerterà la magistratura, lo cercheremo di capire attraverso l'inchiesta interna che è già stata avviata prontamente ieri dal comandante generale Nistri su indicazione del ministro e di tutte la parte del comando generale che si occupa di ciò. Quindi su questo, ecco, non mi voglio sostituire, non voglio entrare nei dettagli di quello che è accaduto. Però rappresenta un problema, Tofalo, questo. Sicuramente è un qualcosa, ecco, che andrà capito al meglio, e poi bisognerà prendere provvedimenti, e una volta, ecco, recepito quello che sarà realmente accaduto, magari in questo caso l'organizzazione, l'esecutivo, il legislatore potrà andare a modificare un sistema per renderlo ancora più rigido, più efficace, più efficiente, affinché queste cose non avvengano più. Quando avvengano ci siano i campanelli d'allarme immediatamente. Che si sentano immediatamente. Senta, sottosegretario, due cose in tutto questo. Ci sono appunto le parole molto misurate, a mio giudizio, che il sostituto procuratore e la magistrata che si sta occupando dell'inchiesta ha tenuto a pronunciare per la serie: io difendo lo Stato, ed è nel difendere lo Stato cerco di capire se ci sono dei comportamenti che vanno contro tutti noi cittadini. Certo. E quindi intanto questo è un punto. E il secondo punto, la domanda che le volevo porre è: ma senza le intercettazioni, noi questo giro presuntamente delinquenziale della caserma di Piacenza l'avremmo mai scoperto? Forse forse no, o se nel caso ci fosse stata qualche persona coraggiosa che avrebbe, ecco, avrebbe denunciato quello che stava accadendo una volta che si era accertato il tutto. Io penso che la gravità della cosa è quando un uomo di Stato, un uomo in divisa commette un reato, è un qualcosa di 100 volte più grave a mio giudizio rispetto ad un cittadino normale, quando soprattutto nel mondo militare, che io lo dico spesso anche pubblicamente, si effettua un giuramento che è superiore allo stesso giuramento che fa il politico. Io da sottosegretario ho giurato 2 volte nei governi Conte 1 e Conte 2 di essere fedele alla Repubblica, rispettare la Costituzione, le leggi, di muovermi nel solo interesse del paese, della nazione. I militari, chi fa un giuramento per la difesa, giura sulla bandiera e si rende disponibile addirittura all'estremo sacrificio. Quindi poi pensare che queste persone, dopo un giuramento del genere, commettano reati, ecco, mi limito con i termini, visto che siamo in radio in diretta, fa molto arrabbiare, e credo che io sono per una linea durissima, cioè queste persone non dovranno, una volta accertati i fatti, dovranno perdere il lavoro, dovranno togliere, lasciare la divisa, chiedere scusa 100 volte e pagare con il carcere se, ecco, i reati poi saranno accertati. Su questo io sono molto drastico, e io alzerei anche le pene, cioè lo dico molto sinceramente, per chi sceglie di fare questo percorso, che non è un percorso obbligatorio, un percorso, servire il paese è il più grande dei privilegi, indossare l'arma, io oggi da sottosegretario non ho fatto il servizio di leva, chi mi conosce lo sa, l'avrei voluto fare per motivi di studio, l'ho sempre rinviato, poi la legge cambiò, l'avrei voluto fare, avrei voluto intraprendere un percorso di accademia, ecco perché talmente mi sono appassionato e innamorato delle forze armate, proprio perché lavoro con persone squisitissime, e chi fa un percorso del genere deve avere dei valori di vita ben più solidi di altri. Arrivare poi a queste deviazioni, degenerazioni, fa molto male, ecco, per cui io alzerei anche le pene per chi viola le leggi con la divisa, mi pare di aver capito. Grazie, grazie Angelo Tofano. Io vorrei solo chiudere ricordando, perché poi l'arma, ecco, adesso parliamo di arma, è quella che durante l'emergenza Covid ha pagato il maggior tributo di perdite di vittime. Abbiamo perso 10 uomini in questi mesi e ecco, abbiamo pianto nelle segrete stanze. Questo purtroppo poi se ne parla poco, quando poi succede un episodio del genere è giusto parlarne, ma vi posso assicurare qui dal signor Ministro che ci ha messo la faccia, il Comandante Generale, il sottoscritto e tutti gli altri, seguiremo attentamente questa vicenda, e chi ha sbagliato, e le cose sono molto gravi, pagherà e pagherà veramente. Grazie Angelo Tofaro, sottosegretario Grazie. Della difesa. Buona giornata. Una pausa e poi chiudiamo. Beh, Maria, parlando di cucina tra poco. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Cara Maria, prima di andare dal nostro Davide Oldani, Giorgio De Luca ha preparato ieri un piccolo montaggio di qualche audio, di qualche pezzo, di qualche spezzone di trasmissione che si apre con i nostri ascoltatori tutto quello che abbiamo passato quest'anno. Che abbiamo passato, non proprio tutto, qualcosa no, c'è. Pezzetti. E iniziamo con una ministra dimissionaria. A cioè proposito che si è dimessa, di ministra della difesa, Sì, la ministra della difesa, appunto, tra l'altro, e chiudiamo con un'altra ministra, quella delle infrastrutture e dei trasporti, che insomma ha scatenato un po' di confusione l'altro giorno sul tema autostrade, proprio a partire dai nostri microfoni. Ha fatto notizia, decisamente, però via. Di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria, eccoci. Ciao Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora, mio marito, che è il titolare dell'alloggio, perché era stato assegnato a lui, pur essendo tutto regolare per salvaguardare la serenità della famiglia, sta presentando in questo momento istanza di rinuncia a quello che è un suo diritto, l'ha già fatto. Mi auguro che si voti nel 2020. Ecco, questo me lo auguro non per Salvini, perché l'economia italiana è totalmente ferma. We'll nel senso, ha ragione l'ultimo ascoltatore, questi sono un branco di dilettanti allo sbaraglio che non ha mai lavorato un giorno fuori dalla politica, non sa cos'è una fabbrica, non sa cosa costa farla, cosa costa mantenerla, innovarla, non sa, cioè non sono, sono la parola giusta è cialtroni, ecco. Porto a casa il fatto che alla mia domanda, ma insomma le regioni aggiustano i numeri per paura di essere fermate, lei con giustamente una terminologia accurata ha risposto sì, le regioni aggiustano i numeri per paura di essere fermate. Ho capito bene? Sì o no? Diciamo che c'è il ragionevole sospetto. No, mi dica sì o no. C'è il ragionevole sospetto che sia così. Che sia così, perfetto. Grandi giornalisti quali siete, ma ti pare normale che un grandi giornalisti adesso non esageri. Buonaccini, allora, la captatio benevolenze di Buonaccini. Da mediocri giornalisti quali siete, vi pare no, normale? No, mediocre allora intervengo io, mediocre no. Allora, vede? Quindi confermato. Al sindaco Gucci ho mandato una lettera e io gli ho confermato tutta la procedura di collaudo, della consegna e ovviamente anche quella della gestione post inaugurazione, che è appunto una gestione che va al concessionario. Al concessionario. Cara Maria, ci sarebbe stato molto altro, ovviamente non è esaustivo, a partire non siamo riusciti a ripescare la tua litigata col sindacalista della scuola della CGIL con Sinopoli, che era quella top che assoluto. Abbiamo anche detto che l'avremmo rinvitato, ma poi invece non c'è stata più occasione, ma magari lo reincrocio da qualche parte, anche perché puoi immaginare che la scuola continuerà a essere oggetto sia della mia personale attenzione, che come dice mia figlia è la mia ossessione, ma sia di grande attualità quando a settembre riapriranno le scuole. Ma ci sono stati dei momenti una scuola che riaprirà a rotelle, diciamo, a rotelle. Vediamo banchi. Se arriveranno i banchi. Ma chissà, ci sono stati dei momenti anche insomma i nostri ascoltatori se lo ricorderanno, i momenti a marzo, aprile soprattutto, in cui cominciavamo la mattina con l'elenco terribile, no? Delle vittime, certamente, certamente. Sembra un secolo fa, invece era solo due mesi fa. Cioè. Allora, un momento più leggero, se vogliamo, e non solo in realtà, perché purtroppo poi, non solo. Covid, l'emergenza Covid ha colpito duramente il settore della ristorazione, però salutiamo il nostro Davide Oldani. Ciao Davide, chef. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Eccoci qua. Tra l'altro sta in uscita adesso con il libro, anzi è già uscito il libro Mangia come parli, che porta lo stesso titolo della trasmissione che conduci insieme a Pierluigi Pardo, 80 ricette semplici in un libro di cucina e cultura del cibo, edizione del Sole 24 Ore naturalmente. Davide, senti, ma tu quei banchi a rotelle li metteresti mai in un tuo ristorante? Scusami, mi è venuto in mente mentre raccontavamo della scuola. Dai, banchi a rotelle, devo dire una cosa, che i miei banchi del ristorante sono stati disegnati da me e uno spunto della scuola l'ho presa, quindi era quel famoso sottobanco dove si appoggiavano i libri per lasciare la parte superiore pronta a tenere in mano il libro, per cui insomma per la lezione che c'era. Per cui uno spunto l'ho preso, no, i banchi a rotelle assolutamente no. No, è un po' troppo, le sedie a rotelle è un po' troppo. Maria, vai. Due cose insieme, Davide. Allora, da un lato le notizie che arrivano da Savona, ma anche da Ostia, vale a dire che al ristorante è capitato, ho citato queste due località, che ci fosse un nuovo focolaio di Covid, nel senso che tutti quanti all'inizio nei ristoranti abbiamo visto si stava a distanza, in molti ristoranti hanno messo quei bellissimi plexiglass, io li trovo bellissimi perché mi sento più sicura. All'inizio è stato così, adesso adesso com'è la situazione? Un po' perché gli stessi clienti dicono sì, ma insomma il Covid è passato e quindi c'è una tendenza a rilassarsi tutti, per lo più al ristorante dove ci si va per rilassarsi, e da un lato perché forse poi diventa anche complicato far tirare i conti se i clienti li distanzi troppo, alla fine ma, ce ne hai pochi. Ma secondo me l'orientamento sarà quello sulla qualità. Adesso noi usiamo la parola distanza sociale, distanza eccetera, che va bene, però quello che vuole, quello che desiderava anche prima del Covid le persone, desideravano le persone, era comunque qualità sempre più alta e soprattutto avere cura delle persone che entrano in un posto dove devi fare un servizio del genere. Per cui l'ospitalità in primis è quella che devi dedicare del tempo, devi cominciare a considerare le persone che entrano in un posto non più coperti, questa parola brutta che viene chiamato coperto, quando invece è un ospite, è un massimo un cliente che ti viene ad aiutare a mangiare, a sostenere la tua azienda. Io credo che adesso ci sia veramente la possibilità, e lo sto dimostrando a me stesso, io nella mia azienda, che la qualità, tenere ferma la qualità, la gente si fida e ti garantisce poi non il mordi e fuggi, ma la continuità di un'azienda. Sì. Io, per farla breve, credo poco alle attività che non possono ripartire dopo il coronavirus per colpa del coronavirus, perché evidentemente anche nella ristorazione quelli bravi ripartiranno, sì, sicuramente con un po' di acciacchi, un po' di problemini, ma che sono problemi iniziali, ma poi sicuramente non si può pensare che per 3 mesi di lockdown uno debba distruggere una vita di lavoro. Aspetta un attimo, Maria sì. abbiamo una breve pausa, una breve pausa e poi torniamo da Davide Oldani. Davide Oldani. Ecco, scusami, volevo non perdere quello che ha detto Davide Oldani, perché riguarda le aziende di ristorazione, ma riguarda tanti. Davide ha detto: io non credo che un ristorante chiuda solo perché per 3 mesi sia rimasti senza clienti. Cioè, vuol dire che chi ha una professionalità, se poi viene aiutato ovviamente dallo Stato a reggere, giusto, alla fine continua, e chi invece stava improvvisando, viveva già da tempo in condizioni di debiti o comunque non era fatto per quel mestiere, è stato messo di fronte a una realtà dura. È questo quello che stavi dicendo? Assolutamente, Davide? Assolutamente sì, ma poi voglio aggiungere che c'è un'opportunità, visto tutto quello di cattivo che abbiamo passato in questi mesi, c'è un'opportunità in più, cioè di lavorare meglio. Questa parola lavorare meglio vuol dire lavorare meglio sia per il collaboratore sia per il datore di lavoro, per il titolare. Per cui io questa scelta che ho fatto, io ho tolto il 40% di tavoli, faccio il mio mestiere con grande passione, riusciamo anche adesso pranzo e cena ad essere completi. Naturalmente uno deve poi fare i conti, ma i conti li fai nel momento in cui tu servi a tutti quante le persone, dai una garanzia di continuità sia nel cibo che nell'accogliere le persone. Il problema è che una volta che si ha la sicurezza del tutto pieno, molte volte ci si dimentica di fare un mestiere di accoglienza, cioè, ripeto, come dicevo prima, trattiamo le persone come coperti. Sì. Davide, però posso farti questa osservazione, ed sì, è quello che poi ci scrive qualche ascoltatore. Ci dicono: vabbè, parli facile tu che hai un ristorante che già parte con un'idea di qualità di un certo tipo. Sì. Io che ho la pizzeria sullo svincolo autostradale, che servo prevalentemente camionisti, agenti di commercio e via dicendo, con quello sì, le persone, va bene, l'attenzione agli ospiti, quelli che passano sempre, e però sui coperti devo ragionare e su conti che devono essere limitati. Io non sono d'accordo, io posso continuare a dire che la matematica è matematica per tutti, 1 più 1 più 1 fa 3, 1 più 1 fa 2, 1 è 1, per cui quando la matematica è uguale per tutti uno deve regolarsi in base alla scelta di vita che ha voluto fare. Il mio ristorante non è partito così perché è sceso dal cielo, perché 35 anni che sono nelle grandi cucine, 17 che ho aperto la mia attività senza indebitarmi ma utilizzando i miei danari. Certamente 17 anni fa facevo, iniziavo, per cui ero 20 ore al giorno io, non i miei ragazzi, ma io dentro la mia attività. Adesso ci possiamo permettere di ragionare in maniera, in una veduta un po' più ampia. Perché? Perché ho ragionato con quella, con quell'etica e quell'educazione che la mia famiglia mi ha dato, la mia famiglia mi ha educato risparmiando, per cui io non accetto assolutamente di quelle contestazioni che non si possano pagare le fatture ai piccoli fornitori, ai piccoli produttori, a quelle persone che ci danno vita, a tutti i ristoranti, che siano pizzerie, ristoranti, mense, GDO, eccetera. Non posso accettare che non vengano pagati per fatture del settembre del 2019 o dell'ottobre 2019 per colpa del coronavirus. Perché dopo 5 mesi tu non puoi non pagare queste, perché queste persone, questi piccoli produttori, questa gente che veramente ci aiuta nella qualità, è gente che anche loro hanno bisogno di vivere, per cui bisogna farsi un po' gli esami di coscienza, non andare in piazza a protestare che uno ha 10 ristoranti o 3 o 5 bar e non può fare determinati numeri, se determinati incassi se non fa determinati numeri. Sono cose, secondo me, improvvisate. Maria. Bene, io mi collego a quello che diceva Davide Oldani. Negli ultimi anni in tanti, no, si sono scoperti ristoratori, chi per passione vera, chi perché insomma tirava, no? La cosa faceva reddito, e come. Tanti ragazzi che non trovavano lavoro hanno aperto un buchetto, una pizzeria a taglio, eccetera. Allora, la domanda a Davide Oldani è: come si può fare che la ristorazione sia qualcosa di non occasionale, di non improvvisato, che sia un lavoro tutto, che è in grado di reggere anche alla tormenta di eventi come il Covid? Beh, anzitutto bisogna essere professionisti, non è che perché la cucina la faccia la mamma a casa come la fa la mia grande mamma, ognuno possa cucinare, voglio dire. Tutti possono cucinare probabilmente in casa, ma tutti non possono cucinare nelle attività. Per cui innanzitutto scuole, studi, poi bottega, frequentare la bottega è l'altro ingrediente fondamentale per arrivare ad essere dei grandi cuochi o dei cuochi che abbiano un senso. E per poi poter bisogna gestire. Avere anche il senso dei numeri, no? Perché se io aprissi un ristorante sarebbe un disastro sui bilanci. L'umiltà di capire che per fare un mestiere bisogna dedicarci del tempo. Ci sono tante persone che dopo l'università, vedendo il mondo cucina, come si evolve, come è mediatico, cambiano da magari giurisprudenza, economia e commercio, ne ho avuti qualcuno tanti anni fa, per iniziare la cucina. Poi quando si rendono conto che la cucina è un ambiente duro, è un ambiente comunque sacrificante magari più di altri lavori, oltre che fisicamente anche mentalmente, per cui poi ritornano a cambiare. Io credo che gli ingredienti siano scuola, come in tutti gli altri settori, applicarsi come in tutti gli altri settori, avere la voglia di fare, e poi naturalmente quello che posso aggiungere è avere un filo di palato, però è magari una delle ultime cose, ma fondamentalmente deve avere la praticità, la manualità, l'organizzazione, che poi una volta che un cuoco ha iniziato a cucinare, a imparare nelle sedi, dai maestri giusti, i conti arrivano da soli, perché sì, imparando con i grandi maestri si impara a utilizzare la materia prima più importante, più fresca, a utilizzarla in maniera intelligente, cioè senza creare scarti. Perché nella ristorazione tutto ciò che viene in di più è perché uno non conosce il prodotto, non conosce la stagionalità. La stagionalità ci dà il prodotto di alta qualità e accessibile economicamente. Quello che faceva la mia mamma per mantenere una famiglia, per guidare la famiglia in maniera anche economica. Allora, tutte queste cose, non è che perché uno fa 2 spaghetti a casa bene possa aprire un'attività, è peggio perché crea dei buchi nella società. Certo. Davide, allora il punto è che secondo me è un tema sul quale dovremo sicuramente tornare, sicuramente ti riconvocheremo. Nel frattempo dico che se invece i 2 spaghetti a casa ve li volete fare fatti bene, c'è appunto il libro di Davide Oldani. Non l'avevo ancora detto, è vero, mangia come padre soprattutto, lo diciamo anche in inglese, possiamo, good morning Italia, perché era un risveglio giusto e corretto per la nostra Italia. Oh, Davide Oldani me l'ha strappato di bocca, siccome siamo proprio agli ultimi secondi e appunto dall'anno prossimo al mattino ci sarà Simone ma non ci sarò io. Beh, vi posso dire good morning and good luck, come diceva George Clooney nel film, citando un grande giornalista americano. Buona fortuna a te Maria, in bocca al lupo. In bocca al lupo a tutti e buona estate. Ciao, grazie. Grazie, grazie. Ciao Davide Oldani, ciao Maria Latella e ciao a tutti, ci risentiamo il 31 di agosto. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.